La crisi economica e aiuti al settore industriale in primo piano, sempre bonus da 1000 euro per chi rottama l'auto e ne acquista una nuova e in aggiunta esenzione dal bollo per 3 anni. È una delle misure della bozza del decreto salva auto che dovrebbe arrivare domani in Consiglio dei Ministri. Previste anche detrazioni del 20% IRPEF su acquisto di mobili ed elettrodomestici e un contributo di 300 euro per chi compra motocicli. In totale, ha sottolineato il Premier Silvio Berlusconi, la cifra è questa. 40 miliardi, che potranno diventare anche 80 miliardi considerando i fondi europei, regionali e governativi. A questo si aggiungono le misure che stiamo studiando e che io penso di poter concretamente mettere in provvedimenti nei prossimi giorni, a sostegno di certi settori strategici della nostra economia, settore delle auto, della componentistica che sono in crisi, ma anche il settore del bianco, là dove tuttavia queste imprese producano oggetti elettrodomestici che possono andare nella direzione di un minor consumo di energia. In attesa tra poco dell'apertura delle borse europee, sentiamo intanto com'è andata a Tokyo. La borsa di Tokyo ha chiuso oggi in ribasso dell'1,1% a quota 7.949,65 punti, in quanto l'effetto dei continui profit warning provenienti dalle aziende ha finito per prevalere sulla sensazione di un miglioramento delle prospettive dell'economia e del commercio internazionali, fattori questi che hanno sostenuto i titoli delle aziende di spedizioni marittime e delle materie prime. In Giappone però un intero settore ha chiesto l'aiuto del governo, quello delle compagnie aeree. L'esecutivo guidato dal Premier Taro Aso sta preparando un pacchetto di misure di supporto entro la fine di marzo. Alcune voci indicano anche che Japan Airlines, la principale compagnia, intenderebbe chiedere autonomamente un prestito di emergenza. Quanto al settore auto, oggi è stata la volta di Suzuki a emettere un profit warning, anche se riuscirà a rimanere inutile a fine esercizio. Un po' di fiducia è arrivata oggi dalla presentazione della nuova Honda Insight, l'auto ibrida destinata a sfidare la Prius della Toyota. Sarà commercializzata in Giappone da domani a un prezzo inferiore a quello della concorrente. L'obiettivo della Honda è di venderne 200.000 esemplari l'anno su scala mondiale, di cui 30.000 in Europa. Stefano Carrer, GR24, Sole 24 Ore, Tokyo. Dramma al Giro del Qatar. Friedrich Nolf, velocista belga, è stato trovato morto nella sua stanza al 14° piano dell'hotel che ospita le squadre a Doha. Il corridore militava nel team Top Sport, avrebbe compiuto 22 anni tra 5 giorni. È presumibile che il decesso sia avvenuto durante la notte. Sono ancora ignote le cause di quanto avvenuto, si pensa però a un infarto. Infine anche il calcio con la Coppa Italia. Nell'ultimo dei quarti di finale la Juventus ha eliminato a Torino il Napoli 4-3 ai calci di rigore. Tempi regolamentari e supplementari si erano chiusi sullo 0-0. Il Napoli ha fallito il rigore della vittoria con Contini, poi gol di Legrottaglie ed errore decisivo di Gargano. In semifinale la Juventus sfiderà la Lazio. È tutto per questo GR24, ora ci parliamo con l'elefante. La prossima edizione del GR invece è alle 10. Benvenuto nel servizio clienti Quix. Buongiorno signor Ghislini. Pronto Carlo? Sì. Scusa, ho appena... Salve, ho appena tamponato una macchina. Va bene? Sì, tutto a posto, ma non so cosa fare. Adesso lo risolviamo. Allora, prenda il modulo blu. Sì, aspetti. Del cruscotto. Quale? Quello... Quanti cruscotti ha, scusi lei? Chiama anche tu Quix, l'unica assicurazione auto online che ti offre un consulente personale dedicato e ti fa risparmiare. Fai un preventivo 800-558-558 o quix.it. Quix, diretta, personale, AXA. Buongiorno, sono Carlo, magazziniere della Coop. Volevo dirvi che Coop è con voi, anche ora che si fa un gran parlare di crisi, e lo dimostra abbattendo i prezzi del 20% su 300 prodotti Coop. Fino al 29 marzo. Coop, dalla tua parte, noi. Va bene, evidentemente le porte antincendio non sono il suo forte. Vediamo, delle barriere architettoniche, cosa sa dirmi? Niente? Niente? Certe scuole hanno ancora molto da imparare in fatto di sicurezza. Anche quest'anno INAIL finanzia i migliori progetti degli enti locali per mettere in sicurezza le scuole pubbliche medie e superiori. Il bando è su inail.it e c'è tempo fino al 20 marzo. Informazioni all'803 164. INAIL. Al lavoro con te. Oggi con il Sole 24 Ore, Nova 24. E-Government. Come l'innovazione cambia la pubblica amministrazione. Nuove frontiere della robotica. Nasce il primo prototipo umanoide. Oggi in regalo con il Sole 24 Ore, Nova 24. Il supplemento di ricerca e innovazione. Interrompiamo la solita pubblicità per una pubblicità straordinaria. I super genial Lloyd sono tra noi e proteggono gli automobilisti 24 ore su 24 contro ogni imprevisto, dagli eventi naturali più catastrofici alla semplice rottura dei cristalli. Il loro superpotere è un super servizio, ma con un super risparmio, fino al 30%. Tutte le polizze auto all'ascolto sono pregate di chiamare l'800-999-999 o di cliccare su genialloid.it per un super preventivo gratuito. Così semplice, così genial Lloyd. Ripassiamo la linea alla solita pubblicità. Parliamo con l'elefante di Giuliano Ferrara. Buongiorno, 800 24 00 24. Oggi cerchiamo di capire che cosa sta succedendo nel palazzo della politica. Non è semplicissimo, perché certi indizi dicono che bisogna mettersi sulla pista dell'accordo, anzi dell'accordone. Nei talk show, nei giornali, si dice il Veltrusconi, crasi tra il cognome di Veltroni e quello di Berlusconi. C'è stato l'accordo sulla legge elettorale per le europee, uno sbarramento al 4%, come dire, una concezione esclusiva della politica, insomma, quelli che non... scusatemi... raggiungono un certo livello fuori, quindi un accordo tra l'altro in cui ha giocato molto la fiducia reciproca dei due leader, di Berlusconi e di Veltroni, apparentemente, perché almeno nel Partito Democratico non c'era affatto unanimità su questo livello dell'accordo, su questo 4%. E quindi sembrerebbe che vadano d'accordo, che abbiano cominciato ad andare d'accordo. Voi sapete bene che alle elezioni si è arrivati sul fondamento di un accordo tra Berlusconi e Veltroni. Perché? Perché c'era Prodi che governava con una risicata maggioranza, Veltroni diventò il leader del progetto Partito Democratico, si aprì la famosa stagione delle primarie e disse, tirò fuori quella formula magica, la vocazione maggioritaria, cioè praticamente disse il PD non si riconosce più in questa maggioranza di centrosinistra con i partitini della sinistra radicale, ognuno che va per conto suo, Mastella di qua, Bertinotti di là, Di Liberto di là ancora, i Verdi, e allora praticamente avviò la consunzione politica della maggioranza che reggeva il governo Prodi. Su questa idea, vocazione maggioritaria, cioè io sono il capo di uno schieramento che da solo, attraverso questo nuovo partito, il Partito Democratico, può aspirare a governare il paese. Dall'altra parte Berlusconi fece la stessa operazione, si liberò di Casini, il leader democristiano che con la sua truppa consistente, insomma, dentro la coalizione di centrodestra aveva sempre... era sempre stato, diciamo, un segno di contraddizione politica quando Berlusconi al governo e anche quando era l'opposizione, costringe in qualche modo Fini all'accordo e dal predellino di un'automobile in piazza San Babila lancia anche lui la sua vocazione maggioritaria, il PDL. Su questa base, che era una base di convergenza, si va alle elezioni, Berlusconi vince, Veltroni perde, ma il Parlamento è nelle loro mani e tutti dicono, beh, troveranno il modo, uno schema per andare d'accordo, pur combattendosi, pur nel conflitto parlamentare e politico, e su questo schema si reggerà la legislatura. Invece dopo pochi mesi, anzi dopo poche settimane, giù botte da Orbi, non erano affatto d'accordo, e adesso si stanno riproponendo anche lacerazioni, sia nel Partito Democratico, che anzi di lacerazioni è specializzato, in lacerazioni è specializzato, sia nel Partito o Popolo delle Libertà, perché anche lì, avete visto, c'è stato il voto sulla sicurezza, insomma, no? Una maggioranza larga, però ogni tanto la maggioranza svanisce, in Senato a voto segreto sulla sicurezza, su alcune cose alle quali la Lega teneva molto, e la Lega ha il Ministero dell'Interno attraverso Bobo Maroni, e niente, la maggioranza non si è trovata. Quindi insomma ci sono linee di frattura e di tensione in tutti e due gli schieramenti, da Legnani contro Veltroniani, leghisti contro PDL, Fini fa un suo gioco particolare, tende sempre ad emanciparsi il più possibile da una leadership assoluta di Berlusconi. Berlusconi ha sempre il suo famoso carattere, si accorda, però adesso per esempio in Sardegna fa una campagna devastante contro il candidato del Partito Democratico, contro Renato Soru, dicendogli di tutti i colori: sei un fallito come businessman, sei un fallito come politico, sei un fallito come amministratore. Quell'altro gli risponde: tu sei peggio di Caligola, famoso imperatore romano. Insomma, siamo un po' bizzarro, un po' stravagante, diciamo così, e molto crudele. Insomma, siamo in una situazione difficile da decifrare. Quartetto d'archi, 800 24 00 24. Stefano Folli è qui con me nella parte di primo violino, e al telefono, dopo che Deborah Rosciani ci avrà detto della borsa, ci saranno Laura Cesaretti del Giornale e Maria Teresa Meli del Corriere della Sera. Osservatori, spioni del palazzo, facciamo questo quartetto di spie per cercare di raccontare e decifrare la politica nel momento della sua massima incomprensibilità. Sì, buongiorno. La borsa questa mattina è di nuovo negativa, le piazze europee stanno riperdendo tutto quello che hanno guadagnato ieri a causa anche della prestazione negativa registrata da Wall Street ieri sera, e questa mattina ancora una volta replicata dai mercati asiatici. La tendenza del momento è ancora quella all'insegna della volatilità per i mercati e ancora della forte pressione sul comparto bancario, come si sta manifestando già questa mattina anche a Piazza Affari. Ecco comunque le prestazioni degli indici: Parigi scende di 2 punti, Francoforte perde l'1,93%, in calo di quasi 2 punti anche Londra, Milano meno 1,90 sull'S&P MIB. Dicevamo protagonista negativo ancora il comparto bancario, ma non solo, va male anche il lusso. Bulgari trascina a ribasso Milano meno 3,61%, Unicredit meno 3,47%, Intesa San Paolo meno 3,10%, abbiamo un ribasso di circa 2,5 punti per Buzzi Unicem, Pirelli, STM, Tenaris e Prismian. Segno più invece su un titolo del settore bancario, Monte dei Paschi più 0,09%, l'unico titolo positivo in questo momento a Milano, ma gira già a ribasso, adesso già perde lo 0,19, e oggi teniamo sotto osservazione l'appuntamento di Francoforte con la Banca Centrale Europea, che però non dovrebbe intervenire sui tassi perché l'appuntamento per un taglio è stato rimandato al meeting di marzo. Euro su dollaro a 1,28,09, è tutto, la linea torna a Giuliano Ferrara. Bene, partiamo per capire la politica in questi giorni strani, curiosi, un po' misteriosi. Partiamo da Laura Cesaretti del Giornale e chiediamole di cominciare dall'ultimo fatto. Ieri sera, a sorpresa, 3 votazioni, una larga maggioranza scompare, e sulla questione dell'immigrazione, in particolare sulla questione della sicurezza, che coinvolge il ministro dell'Interno, insomma, succede quello che è successo. Perché e quali saranno le conseguenze, Cesaretti? Salve Giuliano. Perché credo per una questione di rivalità fra un pezzo del PDL e la Lega. La Lega sulla questione immigrazione, grazie anche alla guida del Ministero degli Interni di Maroni, ha acquisito un'enorme visibilità e ha fatto della questione immigrazione una propria arma di propaganda e di iniziativa politica. Il risultato di quelle votazioni sul pacchetto sicurezza sarebbe andato a tutto vantaggio del partito del Carroccio, e lì sono venute fuori le resistenze, le punzecchiature. Mi sembra più un incidente di percorso destinato ad interrompere e a offuscare una visibilità che una reale crisi politica all'interno della maggioranza. Quindi il fronte di tensione non si trasforma in una linea di frattura, diciamo così. Ci saranno oggi Maroni in Libia, farà altre dichiarazioni, Berlusconi ha già detto ma tanto non è successo niente, siamo tutti uniti, eccetera. Insomma, tensione ma niente di più, però dovranno risolverlo questo problema dei centri, diciamo, di accoglienza, no? Dovranno risolverlo, e credo che alla fine, so che stanotte, ieri sera ci sono state riunioni, si è cercato di riportare, diciamo, a unità il voto della maggioranza, e credo che poi non prevedo fratture clamorose nel voto finale. Di sicuro ci sono anche delle linee diverse, perché l'intervista che ha rilasciato qualche giorno fa Pisanu al Corriere della Sera, criticando pesantemente la linea della Lega. Sionista della Lega sull'immigrazione, esprime evidentemente una posizione che non è solo sua, che c'è, esiste all'interno del PD. Comunque c'è un gioco di insofferenza nella maggioranza, ma la differenza rispetto al passato, quando c'era Casini, Follini, quando c'era un partito che aveva una sua strategia interna di smarcamento da Berlusconi, c'è una differenza o no? O si può ripristinare, Maria Teresa Meli, la stessa dinamica che c'era nel passato con altri protagonisti? No, io credo che sia impossibile che si ripristini una dinamica del genere tra Umberto Bossi, per esempio, e Berlusconi. Però è chiaro che questo è il momento più difficile dei rapporti fra la Lega e Berlusconi, perché la Lega ha giocato una partita che è tutta in vista delle amministrative, delle alleanze amministrative, quindi ha il bastone dalla parte del manico, perché in tante regioni, a cominciare dal Veneto, la Lega può fare maggioranza anche se si allea con il PD, perché ha delle percentuali talmente alte che non ha bisogno di allearsi con la PDL, basta allearsi col PD, che pure non è anche nei luoghi dove il PD non è particolarmente forte. Quindi penso che questa tensione fra la Lega e il PDL continuerà fino a quando non si chiuderanno le liste delle amministrative. Ecco, però penso che non convenga alla Lega, a Bossi, fare il percorso che ha fatto Casini. Sentiamo Davide da Como. Sì, buongiorno. Sì. Niente, volevo dire, in base anche al riassunto che ha fatto prima lei, Ferrara, della politica italiana degli ultimi mesi, appunto, sì, riprendendo quello che diceva la signora adesso, io secondo me il lago della bilancia in questo momento della politica italiana non è tanto il PDL e il PD che hanno una posizione maggioritaria, ma questi due schieramenti senza la Lega Nord, o come si dice senza l'Italia dei Valori, che sta acquistando consensi soprattutto nel centro-sud Italia, nessuno dei due schieramenti va da nessuna parte, quindi non è come democratici repubblicani negli Stati Uniti, è una situazione completamente diversa. La Lega, ho capito, è interessante, lei dice la frammentazione vecchio stile, non c'è più i 16, 18, 22 partiti, ma comunque non c'è un bipolarismo vero con due schieramenti autosufficienti, è d'accordo su questo, Folli? Beh, l'osservazione dell'ascoltatore Davide mi sembra molto interessante. Noi non abbiamo un bipartitismo, evidentemente, abbiamo questo bipolarismo fondato sulle due vocazioni maggioritarie che lei, Ferrara, ha giustamente ricordato all'inizio, che però diciamo, o ha uno sbocco bipartitico, nel senso che questa vocazione maggioritaria si allarga al punto tale da abbracciare l'una, tutto lo schieramento, prevalentemente lo schieramento di centrosinistra, e l'altro lo schieramento di centrodestra, oppure rimane prigioniera di una contraddizione, e la contraddizione esiste. Qui abbiamo due grossi partiti, uno, diciamo, Partito Democratico, l'abbiamo descritto bene, l'altro non è ancora un partito unico, ma insomma diciamo in un certo senso lo è già. E poi però abbiamo questi due elementi autonomi, caratterizzati, puntuti, che sono la Lega e l'Italia dei Valori. Questo determina effettivamente una novità grossa, un elemento peculiare italiano, vero, reale, e determina anche la difficoltà di dare un giudizio compiuto di un'ipotesi di dialogo tra Veltroni e Berlusconi, cioè tra i due grossi partiti, che alla fine vediamo che non si riesce mai a concretizzare, perché abbiamo degli indizi, abbiamo dei segnali e poi abbiamo una serie di smentite che sono costanti e sono probabilmente dettate proprio da questa contraddizione politica. Noi non siamo un sistema bipartitico e abbiamo una grande difficoltà a immaginare uno sviluppo in quel senso che sia netto ed evidente. Veltroni lo vorrebbe, evidentemente avrebbe tutto l'interesse, Berlusconi lo vorrebbe forse anche lui, ma entrambi sono frenati, soprattutto Berlusconi è molto frenato su questa strada, perché non può fare a meno di questa alleanza e concorrenza con la Lega. Ecco, una delle caratteristiche più curiose del momento è il ruolo di Antonio Di Pietro. Di Pietro è una creatura dell'attuale classe dirigente del Partito Democratico, su questo non ci piove, perché naturalmente Di Pietro si è fatto da solo più o meno come magistrato e come portavoce dell'ansia di giustizia degli italiani. Mugello. Ecco, no, ma però lui fu prima messo come, quando uscì dalla magistratura così molto rapidamente, incalzato da vari fattori, Di Pietro si pose il problema: cosa faccio? e lo fecero ministro, mi pare, dei lavori pubblici, no? Nel primo governo di sinistra. Poi ci furono nuove rivelazioni, lui decise di dimettersi platealmente, di affrontare i processi, e che cosa successe? Che a un certo punto lo blindarono in un collegio senatoriale del Mugello e lo elessero lì. Poi lui ha fatto perdere le elezioni nel 2001 alla sinistra. Contribuì. No? Contribuì, sì, insomma, dal punto di vista proprio dell'aritmetica elettorale, il fatto di lui, insomma, il fatto che lui fosse fuori fece perdere loro le elezioni e fece vincere Berlusconi. E nonostante questo si è ricostruito un rapporto fino al punto che è stato l'unico dei, diciamo, dei piccoli o medio piccoli salvati da Veltroni, che lo ha messo in lista, lo ha apparentato a sé, eccetera eccetera eccetera. Allora adesso Di Pietro attacca Napolitano, si parla di un 10% per lui alle europee, ramazza voti di qua e di là, è praticamente l'oppositore unico. E vorrei capire, è destinata a continuare questa storia, questo romanzo, no? Di Pietro con l'elettorato di sinistra o di centrosinistra e con il suo gruppo dirigente, col Partito Democratico, o romperanno? Perché insomma, quando poi Di Pietro dovesse prendere veramente una percentuale elettorale da favola per lui e il Partito Democratico pagare amaramente questo rapporto subalterno con Di Pietro, e qualcuno il conto lo presenterà. Che ne pensi, Laura? Penso che purtroppo Di Pietro è una sorta di nemesi che la sinistra italiana si porta dietro e si porterà dietro, perché la verità poi è che lui rappresenta una serie di pulsioni e distanze che esistono nell'elettorato del centrosinistra, che è stato trovato a pane e manette per un quindicennio e che di questa tara non si libera, né mi pare che esista una classe dirigente del PD e del centrosinistra in grado di liberarsene di questa tara, per cui al di là del fatto che ci sia una rottura formale o no, il problema è che il PD non può rompere con quella parte dell'elettorato, anche se poi è Di Pietro che glielo porta via piano piano e glielo porterà via anche a queste prossime elezioni, tant'è che poi Di Pietro era uno dei più fervidi sostenitori del 4% della riforma elettorale europea, anche se poi è riuscito abilmente a far finta di essere quello che se ne disinteressava e a lasciare lui tutto l'onere a Berlusconi e Veltroni. Ha una vera furbizia, proprio scarpe grosse e cervello fino, una vera furbizia da guidatore di trattore. Spassosa è che lui, Di Pietro, ha fatto parlare in aula una serie di suoi deputati contro la legge, ma sul suo mandato ovviamente. Certo. E l'opinione di Maria Teresa Meli qual è su questa cosa? Perché io credo che Laura abbia perfettamente ragione, l'attuale PD non si libererà di Di Pietro, anche perché peraltro il segretario Walter Veltroni nell'intimo non è poi tanto lontano da certe logiche, definiamole giacobine, quindi anche a prescindere dalle sue valutazioni politiche, dal fatto che pensa che se si allontana da Di Pietro perde ancora di più elettorato, perché è vero che Di Pietro adesso glielo sta togliendo, ma al PD sono convinti che se effettivamente si rompesse Di Pietro ne prenderebbe ancora di più di elettorato del PD. E poi perché secondo me appunto Veltroni, al contrario di altri dirigenti del PD come possono essere i Fassino, i D'Alema, ha con la giustizia un rapporto più giacobino degli altri, più simile fra virgolette, perché poi essere simile a Di Pietro è difficile, più simile comunque a quel movimento che sta dietro Di Pietro, ai Travaglio, a questo mondo qua. Dunque, c'è Domenico da Roma che introduce un nuovo elemento secondo me interessante che riguarda D'Alema. Domenico. Buongiorno. Buongiorno Ferrara. Siamo tutti orecchi, come si dice, orecchi. No, ascolti, il discorso per quanto riguarda, io credo, all'interno del PD è legato alla figura di D'Alema, tutto è legato alla figura di D'Alema, perché D'Alema è sempre stato politicamente molto forte all'interno della sinistra, però quando ha accettato la creazione del Partito Democratico, che secondo l'opinione di tanta gente era finalmente un mezzo per incamminarsi sulla strada del bipolarismo, che è la politica che paga di più, e sono fatti, non sono parole, voglio dire. La politica che paga per ora di più ha pagato di più Berlusconi, diciamo, però naturalmente. Fino a questo momento i fatti danno ragione anche a lui, non è che. Il discorso è questo: se D'Alema ha accettato questa creazione del Partito Democratico, poi dall'interno l'ha minato dal primo momento. Ecco, non perché? Folli forse ci può dare una risposta. D'Alema ha avuto una visibilità enorme all'interno del Partito Comunista, PDS, DS, eccetera, eccetera, e adesso, dopo Prodi, capo del governo, Veltroni, che è stato comunque acclamato, Veltroni è stato acclamato da tutta la parte, diciamo, della sinistra moderata, e quindi hanno fatto, secondo me, hanno fatto benissimo a liberarsi tutti quegli orpelli, perché poi anche se un giorno dovessero ipoteticamente è chiarissimo, ma io chiedo adesso a Folli perché D'Alema non si è acquietato, perché lavora per una successione a Veltroni abbastanza chiaramente, ormai c'è in campo anche una sorta di candidatura ombra, la candidatura di Bersani che è ormai quasi sul proscenio a succedere a Veltroni. Ha una visione diversa? Cioè la sua adesione al Partito Democratico era formale, in realtà una visione diversa, o è solo una battaglia, diciamo, legittima di potere? Per cui io penso che ci siano anche delle visioni diverse. Insomma, il Partito Democratico nasce su un presupposto affascinante dal punto di vista mediatico, ma che per adesso non ha avuto alcun riscontro, diciamo, nella realtà politica ed elettorale. Cioè che ci sia la possibilità davvero di fondere tutte queste tradizioni in una assoluta novità un po' anglosassone di questo partito che poi riesce a occupare stabilmente il centro della scena ed entra nel gioco, diciamo, bipartitico di un'alternanza permanente che richiede tutta una serie di passaggi che non si sono realizzati. D'Alema mi sembra che pensi di più invece a un partito socialdemocratico un po' vecchio stile, ma che però mantiene un atteggiamento rispettoso e politicamente fruttuoso con una gamma di soggetti politici che sono anche alla sua sinistra e che non vengono trattati un po' da relitti fossili, come invece è l'idea di Veltroni, no? che anche in occasione di questa riforma, piccola riforma del 4%, ha trattato questi partiti con molta durezza, questi vecchi segmenti, diciamo, dell'estrema sinistra. Non dico che abbia ragione l'uno o l'altro, dico che sono due visioni piuttosto diverse. L'idea di D'Alema è di ricostruire un partito socialdemocratico, capace poi di interloquire con forze che hanno un'altra tradizione. Tradizione cattolica, liberale e altro. Naturalmente la prova di questo è data dal fatto che il Partito Democratico non è ancora riuscito a risolvere la questione di dove collocarsi in Europa. Questo è un po' strano, no? Ci sono diversi punti di vista e non è ancora chiaro se è un partito socialista, di vocazione socialista, un partito liberal democratico, non è del tutto chiaro. Quindi io credo che sia questo. C'è dentro l'area del vecchio Partito Comunista, c'è ancora una profonda differenza di impostazione, di visione per il futuro. E questo è chiaro, è anche una diversa visione dell'assetto definitivo del sistema politico italiano, certo. Bene, devo fare un piccolo barrito, dare la parola alla pubblicità, ci vediamo tra poco. Allora, vediamo cosa c'è in frigo. 6 uova, 4 pomodori, 5 lattine e 300 miliardi di fermenti vivi. Ah sì, avete capito bene. Con Iovis in frigorifero hai 300 miliardi di fermenti vivi di 9 cepi diversi in ogni bustina. Grazie alla conservazione in frigo, i fermenti lattici di Iovis si mantengono vivi e attivi fino al tuo intestino, offrendo così un'azione utile contro diarrea, colite e alterazioni da terapia antibiotica. Iovis, in frigo c'è fermento. Vivo, è un medicinale. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Allora, alla prossima lezione. Riguardiamo subito gli appunti a casa tua. Sì, certo, andiamo subito però, perché dobbiamo prendere due linee della metro, poi la 51 per 12 fermate. Ciao, e fare un paio di chilometri a piedi. Quando c'è da cogliere l'attimo, non lasciartelo sfuggire. Acchiappa subito Mini Cooper D con 00 Mini. Zero anticipo, zero maxi rata finale, 3 anni di assicurazione furto, incendio e manutenzione a 3.900 euro l'anno. Dan veicolo 4,49 TAEG variabile, un'offerta Mini Financial Services valida fino al 31 marzo 2009. Nostalgia della latteria di una volta? Dove la lattaia preparava tante delizie e meravigliose frittate? Allora la sera venite da Omelette e Baguette. Uova in mille modi diversi, baguette originali francesi sempre calde, da portare via o farcire sul posto. Lasciatevi sedurre da una cucina semplice e gustosa, dalle 8 di mattina fino a mezzanotte. Omelette e Baguette è a Milano, via Paolo Sarpi 62, 02 45 48 88 23. E se anche tu vuoi aprire un Omelette e Baguette nella tua città, chiamaci! Vogliamo il 50! 50! 50! Ecco i fast di Dialogo, l'assicurazione che rivoluziona il mercato dell'RC Auto con prezzi sbalorditivi e ti fa risparmiare fino al 50%! Chiama l'833 1166, 833 1166 o vai su dialogo.it, da 4 ruote 1107. Bonus, sconti sulle tariffe, prestiti per i neonati e mutui. In arrivo, le misure anticrisi per le famiglie. Oggi, sul Sole 24 Ore, i chiarimenti degli esperti e tutte le novità previste per sostenere i redditi. Oggi, sul Sole 24 Ore. Della prossima settimana. Sì, pronta? Oh mio Dio! Scusate, devo controllare la mia auto. No! Me l'hanno rubata! Logic, attivate il sistema, la mia macchina non c'è più. Logic, leader mondiale nel recupero veicoli rubati. Tramite dispositivi a radiofrequenze, l'auto rubata viene recuperata dalle forze dell'ordine. Per saperne di più, logic.it. Tuo a partire da 495 euro con forti sconti assicurativi. Resta comodo, l'auto te la riporta Logic. 800 910 265. C'è un mondo di benessere dentro una bottiglietta di Yakult. Lo stesso benessere che nasce nel tuo intestino, lì dove agisce Yakult. E se sta bene il tuo intestino, stai meglio anche tu. Yakult, un mondo di salute. Parliamo con l'elefante. Capire la politica italiana di Palazzo nel momento della sua massima incomprensibilità. Questo è il nostro compito, 800 24 00 24. Porrei un problema partendo di nuovo dai fatti. Legge elettorale è sempre una delle questioni più scabrose nei rapporti tra i partiti, eppure hanno trovato un accordo e lo hanno rapidamente varato con un voto alla Camera, per cui oggi abbiamo un mutamento nella legge elettorale europea, nel senso indicato da Veltroni e dalle sue convenienze, da Berlusconi e dalle sue convenienze. Nonostante l'opposizione, così un po' sotto traccia di Massimo D'Alema e di una quota consistente del Partito Democratico, nonostante la feroce opposizione dell'estrema sinistra e dell'estrema destra, e nonostante qualche mugugno, qualche malumore anche nel PDL. L'hanno fatto, questo è un fatto, hanno dialogato, discusso, trattato, negoziato e hanno trovato un accordo. Giustizia è una cosa più complicata naturalmente, ma anche lì Fassino, Violante, le voci, e Beltroni stesso, le voci che da sinistra, dal Partito Democratico, dal centro-sinistra, come volete, dall'opposizione comunque, dicono: trattiamo, negoziamo, discutiamo, basta che non umilino la magistratura, basta che non sia una legge di riforma della giustizia che vada contro l'autonomia e l'indipendenza dei giudici, di cui il Partito Democratico tende a farsi paladino, ecco, basta che non sia, però su tutto il resto discutiamo, e c'è tutto un fibrillare anche sotto traccia di trattative, di negoziati col ministro di Grazia e Giustizia, anzi della Giustizia, Angelino Alfano. La RAI, beh, c'è Zavoli, un vecchio autorevole signore di 85 anni che adesso ha chiuso, ha cancellato, diciamo, la fase del tiramolla, del tiro alla fune, non più caso Villari, non più caso Orlando, eccetera, niente, su 80 membri della commissione, su 40 membri della commissione, 34 hanno votato per Zavoli. Abbiamo un presidente tipicamente bipartisan, e quindi teoricamente si va verso le elezioni, facciamo anche un po' di pettegolezzo naturalmente, le elezioni di un consiglio d'amministrazione. Poi il consiglio d'amministrazione eleggerà fatalmente un presidente della RAI, un direttore generale. Tutti sappiamo quanto conti il laboratorio politico della RAI, la grande corporation della cultura, dell'informazione, eccetera, che ha le dirette dipendenze dello Stato e dei partiti e del Parlamento nella politica italiana. Quindi ci sono dei fatti. Eppure, ecco, vedo che per esempio Folli dice, attenzione, una doccia scozzese, un giorno è così, un giorno è colà. Sì, qualcosa si muove nel gioco del potere, il titolo della sua nota politica di oggi. Però lui precisa, Folli, il nostro ospite e notista del Sole 24 Ore, il teatro politico si nutre di enfasi mediatica e vive di sensazioni effimere. Cioè, stiamo attenti perché oggi i titoli dei giornali, i fatti suggeriscono che qualcosa si muove, che c'è un accordo, però può saltare da un momento all'altro e insomma, non è detto che siamo sul sentiero virtuoso. Cesaretti, questi fatti cosa dicono in realtà? La vera lezione di questi fatti qual è? Parliamo per esempio della RAI. Se si accordano sulla RAI, questo che significa? Se si accordano sulla giustizia, questo che significa? Premesso che dubito profondamente che si possano accordare sulla giustizia, ad esempio, perché quando gli esponenti del PD, anche i più aperti da questo punto di vista come Fassino, premettono che non si può fare una riforma che sia contro la magistratura, questo vuol dire che non si farà nessuna riforma per quanto le riguarda, perché comunque la corporazione dei magistrati sarà sempre ferocemente contraria a qualsiasi modifica che riduca il suo strapotere. E il PD si allineerà, credo, alla fine, comunque, nonostante le voci al suo interno da Fassino Violante che dicono cose diverse. Premesso questo, a me pare che poi l'interesse fondamentale dei capi dei due schieramenti sia solo uno, cioè quello di cercare di preservare il modello leaderistico di coalizione, di schieramento che hanno in testa, e quindi diciamo il loro ruolo all'interno dei rispettivi schieramenti, e che poi gli accordi alla fine si fanno per preservare questo. È successo sulla legge elettorale, dove c'era un interesse reciproco a eliminare perdite di voto per liste minori e soprattutto a gestire in prima persona i rapporti con l'altro schieramento da parte di Berlusconi e da parte di Veltroni, di essere gli interlocutori dell'antagonista, e per questo ci si è arrivati. Cioè, il rischio è, come scriveva Andare Oggi Pane in Bianco sul Corriere, che poi gli accordi si facciano in nome di alcuni armistizi di potere, diciamo, fra i due leader degli schieramenti, più che sui contenuti che possono interessare il Paese. E Maria Teresa Meli cosa pensa di questo? Per esempio la RAI, abbiamo qualche informazione in più da poter dare ai nostri ascoltatori? L'accordo tiene? Chi sarà il presidente? Chi sarà il direttore generale? Si sa qualcosa nel palazzo? Che l'accordo sì, che io sappia tiene, però ci sono dei problemi, cioè c'è un problema da parte di Veltroni che non vuole assolutamente scaricare Claudio Petruccioli, e quindi questo sta rendendo un po' più complicata anche la vicenda della presidenza RAI, e che io sappia non si è neanche definitivamente sistemata la casella del direttore generale, però mi pare che su questa cosa della RAI sia Veltroni che Berlusconi marciano spediti, ed è l'unica cosa che veramente interessa loro, al di là di quello che diceva Laura, che ovviamente fanno gli accordi anche per mantenere il loro ruolo di leader, come è stato con la riforma delle europee, perché in realtà è una stupidaggine dire che Veltroni l'ha fatta per avere il voto utile, perché Veltroni sapeva benissimo che la sinistra avrebbe fatto tutta una campagna elettorale contro di lui, quindi credo che prenderà ben pochi voti dalla sinistra. Ecco, la RAI invece hanno un interesse entrambi molto molto forte, quindi io sono convinta che arriveranno a una soluzione neanche in tempi tanto lontani. Tra l'altro, in materia di RAI e Mediaset c'è un nuovo nemico comune che è Sky, no? Quindi sì, questo accordo, almeno a quello che raccontano i giornali, a quello che si dice, è un accordo anche di difesa sia della RAI sia di Mediaset contro l'invadenza del terzo polo dell'australiano, di Rupert Murdoch, no? Del satellite, o sbaglio? Sì, senz'altro sì, oggi infatti anche nel mio giornale c'è un articolo su questo, perché effettivamente il Sky sta sta volando rispetto a Rai e Mediaset su alcune cose, quindi è una, diciamo, c'è una minaccia di rottura del duopolio, e chiaramente sia Rai che Mediaset si alleano per difendere, per conservare lo stato di cose attuale. Quindi accordi blindati quando sono in gioco interessi veri, consolidati, ma non una visione di legislatura, non una ripresa in mano del gioco politico da parte di Berlusconi e Veltroni nel segno di una convergenza, Folli. Ma sì, mi sembra, non mi pare che ci sia una grande visione del paese e quindi anche delle prospettive della legislatura dietro quello che è un patto di potere. Insomma, io considero quello sulla RAI un patto di potere inevitabile in un certo senso. Il nome simbolico di queste ore è quello di Sergio Zavoli, ed è certamente un nome di grande prestigio. Dietro questo nome c'è sostanzialmente un patto di potere in cui entrano tante cose, la gestione della RAI e anche il tentativo di creare una sorta di asse tra il partito RAI e il partito Mediaset contro Murdoch, non c'è dubbio, tante cose. Non direi che questo è l'antipasto di una, diciamo, di una visione più generale dei problemi delle istituzioni che possa accomunare in qualche modo il centrodestra e il centrosinistra. Perché questo accada dobbiamo prima attendere molti altri fatti, non soltanto un generico disponibilità tattica, che mi sembra molto tattica, sul piano della giustizia o anche del federalismo fiscale. È chiaro che ogni volta che il centrodestra mette sul tavolo una riforma, per quanto discutibile, il Partito Democratico, partito riformista, diciamo, per definizione, in qualche modo cerca di inserirsi. Deve inserirsi, non può evidentemente collocarsi sulla posizione intransigente. Ecco, a questo punto io aprirei un altro capitolo, se siete d'accordo, che è quello di Gianfranco Fini. Gianfranco Fini è presidente della Camera ed è il titolare, diciamo, della seconda forza dal punto di vista elettorale, popolare, di cultura, di storia, del Partito della Libertà. La Lega, tra l'altro, ha un profilo autonomo. E da Presidente della Camera Fini sta facendo, diciamo, un gioco istituzionale assolutamente legittimo, che ha però dei forti riflessi politici. Noi lo vediamo nei telegiornali che discute con D'Alema, lo vediamo che intreccia un negoziato di alto profilo su tutte le questioni all'ordine del giorno con il Partito Democratico, che lo legittima come interlocutore apprezzabile, soprattutto quando litiga molto con Berlusconi, con il Presidente del Consiglio. E noi vediamo da molti segni, Fini ha anche detto, sono vicino al papà di Luana, non ho certezze, sulle questioni di valori, sulle questioni etiche, è sempre molto attento a darsi un profilo di persona diciamo che è in sintonia con certi sentimenti della società civile più moderni, no? Vuole sempre essere considerato un interlocutore affidabile con forti radici in una cultura democratica e progressista. Ecco, fino a dove potrà spingersi Fini? Fini fa un gioco di palcoscenico, un gioco, come dire, d'apparenza, oppure c'è una sostanza? Fini può veramente a un certo punto dire dei veti, stabilire dei sì e dei no, tracciare la strada e quindi, come dire, sostituirsi tendenzialmente alla leadership di Berlusconi attraverso l'uso di questo rapporto politico speciale con il Partito Democratico. Cesaretti. Non so, perché Fini da un certo punto di vista sta facendo, utilizzando, diciamo, la sua postazione istituzionale, un po' lo stesso gioco che fece Casini in un'altra legislatura, certo, però, e che non portò, diciamo, Casini molto lontano, mi sembra di verificare, no? Dopo alcuni anni. E, detto ciò, lui si ritaglia ovviamente un profilo tutto personale di interlocutore dell'opposizione, di interlocutore di anche se io penso, per esempio, che su certi temi ci sia, al di là della volontà di ritagliarsi un profilo e una visibilità, ci sia anche probabilmente una sua effettiva convinzione. Il suo pronunciamento, la sua dichiarazione sul caso Englaro è stata molto sobria, ma anche molto seria, insomma, mi sembra molto non strumentale, ecco, c'è anche una sua insofferenza, diciamo, rispetto al suo partito di provenienza e alla cultura di provenienza di AN che lui ha manifestato in varie occasioni che si fa sentire. Però insomma non c'è una battaglia per la leadership o una battaglia per cambiare gli equilibri parlamentari in Italia? Sicuramente c'è anche questo nel suo disegno, non so però che efficacia possa avere, visto appunto gli esempi precedenti. Torniamo a Di Pietro, Roberto da Milano. Sì, buongiorno. Roberto. Sì. Buongiorno. Lei ci dice che Di Pietro sa un sacco di cose a livello giudiziario, che vuol dire? Vuol dire che lui ha sempre sostenuto che Berlusconi sia l'anomalia del sistema politico italiano, ma io credo che uno nella sua posizione, che ha visto carte, che ha fatto indagini, che è arrivato a toccare con mano certe verità che poi ormai sostengono così, si siano fermate per opportunità politica o per schieramenti vari, sia una anomalia abbastanza rilevante, ecco. L'uno Berlusconi per il fatto che ha disponibilità economica. Però scusi, se Di Pietro avesse Roberto, se Di Pietro avesse veramente degli archivi contundenti da poter usare contro gli avversari, sarebbe, come dire, temuto più di quanto non lo sia. In realtà Di Pietro è combattuto apertamente dai suoi avversari. Insomma, gliene dicono di tutti i colori, Berlusconi non gliene risparmia una, ogni tanto lo insulta pure, cioè, voglio dire, ma mi pare che politico. Di Pietro sia coperto da uno scudo di impunità dovuto a carte segrete, mi pare ormai tutto in chiaro. Però io la ritengo un'anomalia, perché lui viene da un passato in cui ha fatto la radiografia, tra virgolette, a tutti quelli che in questo momento detengono ancora gran parte del potere politico in italiano, da entrambi gli schieramenti, che poi non l'abbia mai utilizzato per come spauracchio per eventuali alleati o avversari politici è un altro conto. Adesso infatti fa il politico, non è più un magistrato. Però è vero. Va bene, che... sentiamo una cosa, diciamo, parallela alla riforma della giustizia e il parere di Antonio da Roma. Grazie Roberto. Buongiorno Antonio. Buongiorno. Sì. Volevo porre una questione molto semplice sia a lei che ai suoi interlocutori. Io essendo un elettore del Partito Democratico, ma fervido sostenitore di una cultura politica anglosassone, non capisco perché Berlusconi, avendo una forte maggioranza alla Camera, un'altrettanta maggioranza cospicua al Senato, non faccia una riforma della giustizia secondo quelle che sono le sue visioni, in parte condivisibile anche da un elettore del Partito Democratico come me, in parte, soprattutto sulla parte intercettazioni sicuramente no, però insomma lui ha tutti i numeri per fare una riforma di giustizia, era al governo, la faccia e finisce lì. Cioè non capisco questo continuo... Quest'ansia di raggiungere un accordo. Esatto, un'ansia di raggiungere un accordo. È al governo, va bene. Ha avuto il mandato, faccia la riforma. Dopo le strade ci faremo questa domanda e ci daremo una risposta, come dice Marzullo. Antonio da Roma, grazie. Le strade. Strade in diretta. Per un mezzo pesante e ribaltato che ha anche perso il carico in carreggiata è chiusa la A14 Adriatica tra Giulianova e il Roseto degli Abruzzi in direzione Pescara. Si sono già formate lunghe code in prossimità del tratto chiuso. Sul tratto urbano della A4 un incidente con un'auto ribaltata causa code verso Brescia tra Cormano e la barriera di Milano Est, mentre verso Torino resta ancora qualche coda da smaltire tra Grate e Cormano per il traffico del mattino e per un mezzo che era rimasto in panne e che ora è stato rimosso. In Toscana code per lavori sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno tra Empoli Ovest e Santa Croce sull'Arno e tra Pontedera Est e Pontedera Ovest, in entrambi i casi verso Livorno. Code per lavori anche sulla 4 Padova-Venezia, 4 chilometri tra Dolomirano e l'innesto con la 13 verso Padova e 1 chilometro nello stesso tratto ma verso Venezia. Infine alcune notizie dalle città. A Torino fino alle 12 c'è un presidio di lavoratori davanti al Palazzo della Regione, dunque possibili disagi per il traffico nella zona attorno a Piazza Castello. A Palermo è invece in partenza dal porto un corteo di protesta diretto a Piazza Indipendenza legato allo sciopero del gruppo Tirrenia. È tutto, noi torniamo tra circa un'ora. Parliamo con l'elefante. Bene, un altro barrito e poi andremo all'ultimo barrito tra pochi minuti. 800 24 00 24, continuiamo a parlare di politica. Maria Teresa Meli, sul terreno della giustizia, chiedeva prima un nostro ascoltatore, Berlusconi teoricamente ha una maggioranza blindata, perché non si fa la sua riforma? Perché c'è questa cosa che poi Volli per esempio giudica molto tattica, insomma, di cercare delle convergenze quando si sa poi che invece sulla giustizia litigheranno? C'è Violante che da tempo fa una campagna per raggiungere un accordo, adesso Fassino, cioè, D'Alema, siccome ha avuto anche lui problemi polemici nei confronti di molti giudici, ha un giudizio consolidato ormai da anni sugli eccessi della magistratura italiana, anche lui sarebbe... Però poi quando Berlusconi dirà separare le carriere, se lo dirà come ha promesso, ci sarà un incendio, no? Ci sarà una lite furibonda. Lei che dice? Io sono convinta che se fosse per Berlusconi avrebbe già fatto questa riforma separando gli ordini, limitando le intercettazioni al massimo, però siccome non c'è solo Berlusconi, ha innanzitutto una coalizione con la Lega che, come sappiamo, usa la giustizia per avere qualcosa sul federalismo e in altri campi, quindi non gli consente di marciare con un carro armato. C'è, peraltro, non siamo un sistema anglosassone, quindi il nostro Presidente del Consiglio deve rendere conto anche al Capo dello Stato, e il Capo dello Stato è un signore che un giorno sì e un giorno no chiede che vi sia un dialogo, che vi sia un confronto, che vi siano riforme condivise. Quindi ci sono vari motivi per cui Berlusconi deve tatticamente, almeno tatticamente, andare a un confronto, a un dialogo con il PD. Ben sapendo, io credo che Berlusconi lo sappia bene, perché tutto è tranne che un uomo stupido, che questo accordo non vi sarà mai, perché quello che vuole lui il PD non può darglielo, e perché Violante non rappresenta la linea del PD in nessun modo, e la stessa linea di Fassino non è quella di Violante, perché alla parola separare ordini, che, gli ordini che peraltro Berlusconi ha ripetuto anche ieri, il PD ha i capelli dritti in testa, perché su questo la magistratura si scatenerebbe. Su questo la magistratura si scatenerebbe, sì, non c'è dubbio, e appunto finirebbe tutto in una grande scazzottata politica. Eppure Maria Teresa Meli ha citato anche il federalismo fiscale. Effettivamente anche su quello c'è stato un accordo, con addirittura un'astensione parlamentare. Un semiaccordo, diciamo, ecco, non proprio un voto comune, ma dico, qui stiamo parlando della giustizia, dell'informazione, del federalismo fiscale, che è la principale riforma istituzionale prevedibile nel giro dei prossimi anni. C'è una tendenza all'accordo e invece una massima litigiosità sul piano verbale, sul piano formale. Come mai? Lo dicevo prima, quando il centrodestra mette sul tavolo un progetto, e se fosse per me dovrebbe metterne molti di più, dovrebbe avere una capacità di incidere sulle grandi questioni nazionali più netta di quanto dimostri, quando mette sul tavolo un progetto, come è stato il caso del federalismo fiscale, questo mette il Partito Democratico in qualche imbarazzo. Infatti c'è stata una profonda discussione interna, no, su che atteggiamento prendere al Senato, e con tutto il nord del partito, no, il famoso partito del nord, che premeva per entrare in gioco su questo campo. Alla fine si è scelta l'astensione, che è una apertura che permette, diciamo, di continuare il gioco e la discussione alla Camera. E questo vale in parte anche per la giustizia, anche se sono d'accordo con quello che diceva Maria Teresa Meli, qui è molto più difficile per il Partito Democratico avere un atteggiamento possibilista di fronte a una riforma proposta dal centrodestra che fosse realmente una riforma, e in effetti una riforma della giustizia o passa attraverso una separazione delle carriere oppure non si sa bene che cosa sia, diventa una piccola cosa di razionalizzazione dell'esistente. E da questo punto di vista, per rispondere anche all'ascoltatore di prima che diceva Di Pietro ha delle carte segrete, no, io non credo che il ruolo politico di Di Pietro dipenda dalle carte segrete, dipende dal fatto che lui rappresenta il paladino, il difensore della magistratura, di quella grande parte della magistratura che non vuole sentire parlare, certo, lui di è indubitabilmente una quota dell'opinione pubblica. Quindi questo significa che c'è ci sono degli indizi, ci sono il quadro politico non è totalmente congelato, è evidente, questo è evidente, ma ci sono troppi passaggi che ancora si dovrebbero consumare per poter dire che c'è al vertice del Partito Democratico una classe dirigente realmente consapevole dei rischi politici e delle opportunità politiche che derivano da un vero dialogo col centrodestra. E questo vale però anche per la maggioranza, certo, dove ci sono infinite difficoltà ad accettare questo anche da parte di Berlusconi. Abbiamo curiosamente dimenticato Pier Ferdinando Casini, non ne abbiamo praticamente mai parlato. Pier Ferdinando Casini è il 5%, ha una forza parlamentare insomma notevole, anche se irrilevante dal punto di vista della formazione dell'uno o dell'altra maggioranza. Rappresenta comunque qualcosa, è un partito cattolico, parte del Partito Popolare Europeo, è stato nelle maggioranze berlusconiane, però sempre dialogante, lavora su tutto lo spettro della politica, è ex presidente della Camera. Secondo voi alla fine di questa legislatura Casini sarà determinante per gli equilibri politici italiani o irrilevante? Cesaretti. Determinante non credo, onestamente. Mi pare abbia dimostrato sicuramente di riuscire, di saper giocare bene le sue carte nel resistere all'isolamento in cui si è trovato prima delle elezioni, è sopravvissuto a una sua forza parlamentare ed è interlocutore dell'una e dell'altra spunta. Però non entra nel gioco, insomma, in modo determinante non no. Mi pare. Ma Maria Teresa Milli cosa pensa? No, che non abbia nessun modo di entrare in gioco, perché non, peraltro non ha neanche da fare la politica dei due forni, nel senso che tutti sanno che se lui si alleasse con il centro-sinistra il suo partito verrebbe svuotato e scenderebbe al 2% rapidamente, quindi mi pare un signore che prima o poi dovrà trattare con Silvio Berlusconi. E per ora si limita a fare il rentier, cioè lui ha questa vigna costituita dal suo elettorato, se la cura, se la coltiva, questa piccola nomenclatura politica di centro, ma non è nei grandi giochi politici. Vi ringrazio molto, ringrazio Stefano Folli del Sole 24 Ore, ringrazio Maria Teresa Melli del Corriere, ringrazio Laura Cesaretti del Giornale, tutti gli ascoltatori che ci accompagnano con le loro telefonate e le loro opinioni, in redazione Franca Fossati, Gloria Guerrera, in regia Alessandro Chiappini e Giorgio Matella, linea Gianluca Nicoletti con Melog 2.0. A domani. Radio 24. La passione si sente. Non sapete cosa fare con il vostro mutuo? Io volevo un chiarimento. Io ho fatto un mutuo per la prima casa nel 1998 e volevo capire se anch'io potevo usufruire di questo tetto che il governo ha messo in campo. Volete risparmiare su spese e bollette? Praticamente spendiamo più soldi ad andare a cercare con la macchina queste occasioni di offerte che in effetti poi tutta la spesa di risparmio. Sono Deborah Rosciani. Vi aspetto a Salvadanaio da lunedì a venerdì dalle 12 alle 13. Risponderemo a tutte le vostre domande e scoprirete che è più facile di quanto sembri. Pubblicità straordinaria. I super geni Alloyd proteggono gli automobilisti 24 ore su 24 con un super servizio e un super risparmio fino al 30%. Chiama o clicca su genialloyd.it per un super preventivo gratuito per la tua polizza auto. Così semplice, così geni Alloyd. Dove siamo? Da Ottica Avanzi. E cosa ci fa qui? Cambio questi cocci di bottiglie con delle lenti sottili che mi fanno gli occhi belli. Quante diotrie le mancano? 6 diotrie uguale 60% di sconto. Allora lo vede lo sconto. Lo so a memoria. Ogni diotria vale il 10% di sconto sulle montature delle migliori marche. Vale la diotria più alta fino al 22 marzo. Brava. Il numero verde di Avanzi è 800-28-25-25. Cosa fa? Lo scrivo in grande per quella talpa di mia sorella. Ingegnoso. Avanzi. Libera gli occhi. Gestione del cliente, controllo dei costi, efficienza, organizzazione. Il tuo studio professionale affronta anche questi temi. Il Sole 24 Ore presenta Professionista 24, lo strumento indispensabile per migliorare la qualità delle prestazioni di commercialisti, avvocati, consulenti e la produttività dello studio in un mercato sempre più competitivo. Fai crescere il tuo studio con Professionista 24. In edicola, la seconda uscita.